Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Alla mia età ormai quello che conta è avere la possibilità di aver lasciato un segno, soprattutto nel linguaggio e soprattutto nel far ridere in una maniera assolutamente, a mio avviso, atipica. Fantozzi non è un personaggio comico, Fantozzi è un personaggio tragico. Difatti ho chiamato il secondo libro il secondo tragico Fantozzi. E l'editore mi ha detto, ma Villaggio, ma perché tragico? Scusi, noi dovevo vendere un libro comico. Gli ho detto, si fidi, è un personaggio tragico. Difatti lui è l'uomo più sfortunato in assoluto che la letteratura italiana abbia mai vissuto. È successo un evento che io giudico straordinario nella storia del costume e anche del cinema italiano. Esiste un film che uscì nelle sale 40 anni fa. Un film e una serie di film, una saga che è quella di Fantozzi, che ha ispirato l'immaginario di almeno, diciamo, tre generazioni. Io parlavo dei film di Fantozzi sui tavoli del liceo. Ridevamo, facevamo le battute, prendevamo in giro gli altri. Poi nel contempo c'era anche Fracchia in televisione, quindi facciamo di tutt'uno, quindi potevamo ridere sulle vicende dell'impiegato Fantozzi, ma allo stesso tempo ci incrociavamo le dita perché facevamo Fracchia. Alle interrogazioni, quando non sapevamo rispondere, diciamo, mi scusi, mi si sono intrecciate le dita, e tutti ridevano. Andavo dai salesiani e il prete si arrabbiava tantissimo per questo. In questi giorni è uscito il film di Fantozzi, i primi due film di Fantozzi, restaurati, ma alla fine erano filmetti fatti così così 40 anni fa, si vedono un po' meglio, ma sono sempre gli stessi. Le sale sono piene di gente che vanno e ridono durante i film di Fantozzi. Sanno già tutte le battute a memoria. I film di Fantozzi li abbiamo visti prima al cinema, prima ancora abbiamo letto i libri, poi li abbiamo visti su VHS, poi li abbiamo visti sui DVD. Adesso sono gratuiti su YouTube, chiunque può vederli ogni momento, siamo contaminati da Fantozzi, eppure la gente va al cinema e ride. Qual è questo fenomeno per cui Fantozzi ancora esiste? È l'icona cinematografica eterna dal dopoguerra a oggi in cui tutti gli italiani si identificano. Giuseppe Sansonna. Fantozzi sicuramente nasce come maschera kafkiana. Io sono andato a trovarlo di recente, l'ho trovato a casa sua col suo caftano, i suoi cani giganteschi che temevo che mi aggredissero, come Ivan. Villaggio si è andato a trovare? Sì, sì. Fantozzi e Villaggio, che non coincidono, perché Villaggio in realtà è ferocissimo, è come la belva umana di Fracchia la belva umana. Lui è davvero così nella realtà, di un cinismo che però nasconde una profonda intelligenza. Tra poco 800240024 noi parleremo del fenomeno Fantozzi, qualcosa che tutti noi riconosciamo, di cui tutti abbiamo paura, e per esorcizzarlo continuiamo a citarlo continuamente. Tra un istante. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Il feroce cavalier Catellami aveva fatto piazzare nell'atrio la statua di sua madre Teresa, a cui era molto affezionato, e pretendeva che tutti, entrando e uscendo, le rendessero servile omaggio. Puttana! Puttana! Vecchia stronza! Stronza! Ti faccio vedere io sei! Adesso ti faccio vedere io sei! Sto pulendo! Pulisco perché è molto meglio, perché ha visto com'era sporco, era molto sporco. Questo è il primo sintomo del successo di Fantozzi. Fantozzi ha ricostruito nella sua epopea una sorta di universo liturgico, un Olimpo in cui hanno collocazione dei, semidei, esseri umani, esseri inferiori, esseri sotterranei, che sono proprio gli impiegati. La classe impiegatizia è molto mutata, è molto cambiata dagli anni in cui si produsse Fantozzi. Però le chiavi di lettura della dipendenza psicologica, del servilismo che c'è comunque negli ambienti di lavoro, qualunque siano, anche quelli con le persone più skillate, anche quelli più orientati verso la new economy, anche quelli che si muovono nel campo del 2.0, comunque c'è sempre un mega direttore che affonda le sue origini e la sua investitura negli empiri celesti. Esistono sempre dei sottoposti, degli inferiori. Giuseppe Sansonna. nella clip che abbiamo appena ascoltato c'è il capo, il Catellani, che appunto mette a bisogno di, della sudditanza e quindi della simbologia di questa statua della madre che con i suoi spilloni da calza è il simbolo a cui genuflettersi che gli impiegati utilizzano. Ecco, vedi, c'è tutta una ricostruzione, quasi una dinastia divina. La vecchia madre del grande capo ha già la statua, la sua iconografia vivente, pur essendo ancora esistente. E tutta la traccia del senso di ibris, cioè di sfida all'invidia degli dèi di Fantozzi, che poi sconfiggerà il suo capo nel terreno di scontro, è quello del biliardo, è che alla fine Fantozzi compirà un gesto che è un gesto epico, e avrà un preludio di storia d'amore con la vecchia, se la porta via, la rapisce e lei dice il mio amore, ti ricordi quando la mette nella cabina del telefono, la chiude dentro. Ma infatti prima citavo Kafka, ecco, Paolo Villaggio si è ispirato moltissimo per la creazione del suo personaggio all'agrimensore che arriva al castello e subisce una serie di angherie. E c'è in fondo la lama surgelata del comico che in Kafka è molto presente, però bisognava edulcorarla, bisognava renderla accettabile. Fantozzi è anche, come tu accennavi prima, al mondo dei salesiani, è anche una figura cristologica che attraversa una serie di tappe del proprio martirio per un'ascesi che però non c'è, che l'ascesi sarebbe lo scatto promozionale. Ricordiamo la famosa scena del biliardo, che è una scena terribile, la scomponiamo. Il terreno di scontro dell'agone è il tavolo da biliardo. Fantozzi ha fatto un corso da biliardo, quindi è bravissimo, ma non può dimostrarlo perché deve subire, deve perdere. Tutti gli impiegati intorno attualmente fanno la clac per il capo, che lo sconfigge, gli dà della merdaccia, dell'imbecille, e la madre sul suo trono presiede a tutto. Ci sono degli incroci di sguardi di Fantozzi con la moglie, con la moglie che sembra quasi una sorta di mater dolorosa, lo guarda e dice subisci, subisci, subisci, e poi alla fine c'è la grande rivolta. Abbiamo visto di recente Putin giocare a hockey, in fondo sono dinamiche universali fuori dal tempo, no? Con la gente che lo faceva passare e appunto temendo eventuali risvolti fuori dal campo. Il capo, il potere ha bisogno attraverso anche la simbologia dello sport di rimarcare la propria autorevolezza sul sottoposto, che però deve fargli credere che sta giocando una partita e la perde, e il capo può dimostrare ancora una volta il suo valore, è una sorta di simbologia liturgica che si amplifica e si ripete all'infinito. Questi sono i valori di Fantozzi che rimangono eterni e immutabili. Ecco, io sono convinto che questo accada anche nei più lussuosi e trendy open space, dove lavorano questi ragazzi genialissimi, i nuovi makers, quelli che costruiscono comunque la realtà concreta che proviene dal codice digitale. Anche lì comunque c'è un mega capo a cui bisogna leccare il culo. Anche lì ci sono delle persone che comunque si venderebbero le sorelle pur di avere una gratificazione, come appunto accade quando il povero Fantozzi fu costretto ad essere amuleto vivente di un altro suo capo che invece aveva il demone del gioco. Ma verso le tre il duca Conte ebbe una formidabile botta del suddetto culo, beccandosi un banco clamoroso. Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Bravo, bravo. Continui, continui. Vale, porti subito 25 bottiglie d'acqua minerale, sì, di quella marca. Era la terribile acqua Berthier, la più gasata del mondo. Dove? Beva, beva, beva! Giuseppe Sansonna, questo è il famosissimo episodio dell'acqua per re. Quanto ci abbiamo riso nelle cene di classe. Quanti rutti modulati abbiamo fatto dicendo che erano provocati dall'acqua per re. E qui è fantastica anche la scelta dei volti, dei corpi di questo pantheon che tu citavi, fantozziano, operata da Salce, da Villaggio insieme. Qui c'è Fadi Bruno, questo piemontese aristocratico roboante, tonante. C'è un lavoro sul sonoro, quando gli dice mi tolga quella mano dal culo, tutto l'audio viene oscurato e rimane solo questa voce che rimbomba in tutto il casino, in maniera tale che tutti possono vedere l'umiliazione appunto kafkiana di Fantozzi. Perché aveva questa sorta di follia da giocatore. Fantozzi doveva sempre ripetere gli stessi gesti, erano i gesti che aveva compiuto nel momento in cui vinceva. A un certo punto gli si era seduto sulla mano e quindi doveva lasciare la mano appoggiata al culo. Era una cosa umiliantissima. E poi l'episodio successivo, forse il più noto, quello che ormai è passato alla storia, che ormai è diventata una maniera per siglare tutte le follie del radical chicchismo politicamente corretto legato all'espressione cinematografica, la famosa corazzata Potemkin. Le piace il cinema espressionista tedesco? Io è il grande amore della mia vita. E voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett der Dr. Caligari. Caligari? E chi è? David Graft? Non... Graft? Non sento... Graft! Griffith! Griffith è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottor. Bene, giovanotto! Lei... In quegli anni, negli anni 60, 70 soprattutto, la classe intellettuale egemone utilizzava anche in contesti aziendali la cultura come uno strumento vessatorio, anche lì, ancora una volta, il campo da gioco in cui esercitare un potere. E questo villaggio, attraverso Fantozzi, lo evidenzia benissimo. La cultura non è qualcosa che nutre, che rende la vita più piacevole, più consapevole, è un modo per... tassonomico, per conoscere nozioni, per violentare chi non le conosce, per umiliare chi non le conosce, è un cilicio culturale che ancora oggi viene indossato benissimo da molti radical chic. Ecco, rispetto all'episodio della corazzata Potionkin, del cinema espressionista tedesco, fu una cosa fantastica, perché la scena reale, la corazzata Potionkin, cioè la discesa dei soldati con le baionette, la scena della carrozzina, non poté essere presa dal film originale perché non gli hanno dato i diritti, quindi l'hanno rigirata completamente su una scalinata, penso, non so dove, in Italia. E c'è poi l'episodio, purtroppo legato alla cronaca, di Mauro Vestri, il professor Guidobaldo Maria Riccardelli, che è proprio deceduto qualche giorno fa. Sì, era un vecchio amico genovese di Paolo Villaggio, appunto, che incarna, abbiamo detto, la voglia, incarnava quel personaggio che aveva voglia addirittura di essere regista all'interno di un contesto aziendale, ha bisogno di rifare, di far rifare questa grandezza, questa magniloquenza, questa frustrazione gigantesca che trova spazio negli ambiti aziendali e quindi diventa un superpotere, una onnipotenza devastante per chi è sottoposto. Passiamo adesso a un altro episodio di quelli indimenticabili, quelli che ormai sono rimasti impressi come icone indelebili. L'altra sera, andando al cinema, vedendo ragazzi di tutte le età, anche giovanissimi, conoscere a memoria tutte le battute e riderci ancora, mi fa proprio pensare che episodi come questi passeranno alla storia molto più della letteratura, molto più della saggistica, molto più dei discorsi memorabili di tanti grandi politici, ma persino di papi. Mi sono accordato per 50.000 lire al ragazzo. Un affare, no? Vogliono dei soldi. Ma perché? Quando abbiamo ancora in cassa? Ma con le 8.000 lire della Ginnel Filini abbiamo 52.000 lire. Per bacco, accidenti, bastano solo per la mia. E beh, dammele, va, perché la mia le vuole anticipate. Scusate voi, sono due bidocchiosi morti di fame. Ah. Vieni, andiamo, via. Sì. Tassì? Come si fa ad avere un tassì qui? Tassì? Questa volta ne fece chiamare 9. Ecco, questa è la fase della trasgressione aziendale. Erano gli anni in cui gli impiegati, ma anche gli operai delle grandi aziende, organizzavano questi tour culturali e andavano nei paesi dell'est, che ancora era il vero est, era l'oltre cortina, pieni di penne biro, di collant comprati ai supermercati a poche lire, di profumi di bassissima qualità, perché lì c'erano le donne disponibili. E loro, nella loro miserrima possibilità e capacità di acquisto di stipendi impiegatizi, lì erano dei signori. È un po' l'anticipazione del fenomeno oggi degli idraulici e dei maniscalchi che vanno a Cuba e si fingono ricchi e tornano con le ragazzette che immaginano di aver sposato un miliardario, invece si ritrovano in un appartamento monolocale e lì cominciano i problemi. E qui emerge prepotente una figura fondamentale dell'universo fantozziano, ovvero il geometra Calboni, che è una figura metafisica ricalcata sulla degradazione estrema del personaggio che faceva nobile, nobile decaduto, che faceva Vittorio De Sica. Ha qualcosa del baffo alla Modugno, del seduttore da ufficio, sempre lustro di brillantina, sempre con questa aspirazione all'essere poliglotta, all'essere uomo di mondo, come si diceva un tempo. In questo esotismo fittizio al neo da Night, ecco lì, e questo è il suo regno. E poi c'è la maschera che cade tragicamente, e cade il velo, e le donne dell'alta società, dell'alta aristocrazia borghese, come dice meravigliosamente con un ossimoro Calboni, si rivelano per prostitute. Vanno al Night, Fantozzi con i suoi amici, che in realtà è un posto scannagrulli, e consumeranno tutto il loro budget messo insieme in anni e anni di risparmi impiegatizi per pagare una semplice botta e via all'unico un po' scafato tra di loro, che poi è una scafatezza da retrobottega di piccolo barbiere di provincia, e alla fine torneranno mestamente a casa a bocca asciutta e con la bottiglia dello Stock 84, non mi ricordo qual era la liquore. Brunella Ballor, portato da casa da Filini. Filini sarà portata questa bottiglia residuo di qualche regalo natalizio, pensando che la botta di vita doveva essere innaffiata con un super alcolico. Ci fermiamo un istante, a tra poco con Fantozzi. Melog, cronache meridiane. Lo zampone con le lenticchie! Oh, mi piace tanto il zampone! Alle 10:30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, barò bassamente annunciando al microfono. Attenzione! Mancano 3 minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante! Aspettate! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! E benvenuti! Auguri, auguri! Nell'infinità di paradossi visibili ma altri sottotraccia, intuibili o solo attraverso una ricerca e una contrapposizione delle nostre esperienze personali, c'è la possibilità di intuirli, di capirli, di vederli. Nella saga di Fantozzi c'è anche questa dello spostamento spazio-temporale della liturgia del Capodanno. Gli italiani lo sanno benissimo, ma fanno finta di non saperlo. Dal 1954 in poi hanno sempre festeggiato il Capodanno attraverso il grande veglione trasmesso dalla RAI in orario differito, perché era sempre stata registrata questa trasmissione, almeno per i primi decenni veniva fatta registrata in un posto con il countdown sincronizzato, che nel momento facevano 3, 2, 1, Capodanno, stappavano la bottiglia. In realtà era stato fatto una settimana prima, 10 giorni prima, pochi giorni prima. Fantozzi rende attuale questa, e ancora più vessatoria e umiliante per gli impiegati, questa liturgia nel Capodanno spostato, in cui l'orchestrina schifosa, per fare più serate possibile, anticipa il Capodanno tanto bene proprio nella serata degli impiegati. Giuseppe Sansone. Beh, qui si raccontava un mutamento antropologico, si usciva da una società contadina e si passava al terziario, al mondo industriale, che doveva avere i suoi riti, le sue feste, ma queste feste sono tristi, la felicità non è mai felice, si sta in un sottoscala, c'è il maestrino appunto pagato con una colletta che ottimizza facendo 3-4 capodanni in una notte sola, e quindi c'è l'escamotage, ma è fondamentale la smania di divertirsi, che è la cosa più raggelante e l'input più raggelante che vive lo stesso Fantozzi e i suoi simili intorno. È questo che racconta Villaggio molto bene: ciò che lo distrugge è la voglia di essere felici a tutti i costi. Sì, c'è sempre una metafora squallida di quelli che sono i rituali del boom economico, della felicità raggiunta, del potere d'acquisto. Fantozzi va alla settimana bianca, Fantozzi fa le feste di Capodanno, Fantozzi prova a giocare a tennis, Fantozzi prova a fare tutti gli sport. Insomma, hanno anche una vita sociale, sembrerebbe impossibile in quella miseria, in quella casa orribile con la carta da parati enorme e con quei pavimenti anni 70 a fiorami e con i divani ancora con il cello fan sopra per non rovinare. Sembrava una situazione talmente miserrima, cioè questi se ne staranno chiusi dentro casa a mangiare pane e sputo, buoni, fermi e tranquilli. No, hanno una vita sociale. La moglie di Fantozzi, nella sua orripilanza, si veste da signora quando esce con lui, la figlia la imbellettano, lui stesso mette il vestito buono e va in delle occasioni mondane. Ma come te lo spieghi questo? Era il grande sogno dell'Italia di essere diventato un paese avanzato, che in realtà era sostenuto attraverso un grande bluff. Sì, era la smania di usare il tempo libero, era questo dramma che piombava addosso a tutti, cioè non vivere il tempo per quello che è, magari riempirlo di senso facendo attività anche personali, attività di gruppo. Filini è appunto il grande organizzatore, il grande catalizzatore di queste autodeportazioni di massa in luoghi assurdi. Tutto questo che è a base realistica da cui parte Villaggio, poi attraverso il linguaggio dell'iperbole mescola Tex Avery, Will Coyote con Kafka, come si diceva prima, e quindi c'è l'elemento comico che anche attenua la portata di questa idea politica che aveva Villaggio parlando dell'Italia. Poi c'è un altro punto di collisione. il punto con qualcosa di antico, di arcaico, che ancora aveva un valore in un certo tipo di società, soprattutto quella che si stava evolvendo anni 70, anni 80, in cui dei nomi più o meno fittizi, più o meno tarocchi, però legati all'antica aristocrazia, apparivano nelle cronache mondane. E quindi anche in Fantozzi, improvvisamente, appare una dinastia che poi diventò simbolica, quella dei Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare. Padrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, grande azionista della società. La grande giornata. Splendido. Ecco contessa, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare. Vadi, contessa, vadi! Capovaro, lancio, questa cosa famosa della bottiglia che poi fa... dopo aver fatto, diciamo, stramazzare più persone, alla fine fa stramazzare la nave stessa. Ecco, quanto è rimasta impressa negli anni, nel nostro immaginario, la figura della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, che lancia la bottiglia e stermina tutti gli astanti di questa cerimonia, che poi cambia la cerimonia, sembra c'è un arcivescovo che compie una cosa bestiale con una cosa, fa inchiodo, non mi ricordo, sì, bene. No, gli mutila un mignolo. Mutila, dovrebbe tagliare la cosa, taglia il mignolo così. Ecco, anche questo fa parte dei rituali iperbolici e del tutto immaginare cui la classe impiegatizia ambiva. Volevano comunque sedersi alla mensa degli dèi, costi quel che costi, anche di farsi tagliare una mano o prendersi una bottigliata in faccia. Con astuta mossa padronale, dice Villaggio, parlando delle iniziative appunto dei capi dell'azienda, delle contesse, di questi nobili e nobilastri che gestiscono il potere. Quindi era un'estensione massima a tutta la compagine impiegatizia. Questa voglia di liturgia in cui l'intera azienda doveva partecipare e sentirsi l'aberrazione di una famiglia. Questo è la grande, il grande inganno, la grande dinamica che Villaggio smaschera fino in fondo in queste sue uscite. E poi l'iperbole del linguaggio è fondamentale, e l'uso di questo linguaggio burocratico che esplode e che diventa appunto, evidenzia il suo lato comico, la sua inadeguatezza a esprimere la realtà. Mi di del lei, mi di del voi, anche questa volta del congiuntivo impiegatizio, che ha qualcosa legato in un passaggio, secondo me, abbastanza periglioso, tra l'italianissimo voi, che ancora rimaneva nelle memorie biologiche, l'obbligo di darsi del voi, il lei riacquisito nel dopoguerra, in questo mix per darsi comunque una parvenza che allo stesso tempo sia determinante e significativa di una classe sociale, ci si dava del voi impiegatizio. Sì, questi congiuntivi esortativi, questo tempo libero che non che appunto viene vissuto come Fantozzi e Filini che vanno a giocare a tennis in un albe, cioè fanno qualcosa da ricchi, uno sport da ricchi, come raccontava Gaber parlando del tennis, però lo vivono negli orari appunto in cui i ricchi non ci vanno, ci vanno solo i poveri, e questo tentare di essere adeguati a un modello che non gli appartiene, di cui non hanno neanche voglia, ma devono farci, un imperativo categorico morale che parte e che deve essere adempiuto. Ecco, l'apoteosi di tutto questo è la famosa cena a casa della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, nella località montana di lusso in cui l'aveva portati appunto l'impiegato con parvenze da viver, in cui Fantozzi alla fine ancora di più realizza e dimostra l'incompatibilità fra due mondi, che però devono in qualche maniera collidere, ancora più per mortificare e mostrare all'inferiore qual è il suo stato di abiezione. Ragazzi, c'è la polenta! Su, tutti all'attacco! Avanti, pronti per la polenta! Vai, c'è la porchetta! Sì. Il porchettone? No, grazie, sono a dieta. Ah, ecco, mangia, come non mangio la polenta, ma è obbligatorio, avanti, su! Ma certo che ci sono le salsicce! In realtà appunto qui siamo a Cortina, qui c'è Calboni che ha salutato, ha finto di essere partecipe di quel mondo, in realtà non lo conosce nessuno, lo considerano un cafone arricchito, e vengono invitati da questa simile Marta Marzotto, dove poi Fantozzi precipiterà in seguito alle solite gag da Fratelli Marx o da Will Coyote nella polenta, quindi verrà servito in tavola, quindi esposto al pubblico ludibrio dei ricchi, degli aristocratici che lo vedono appunto coperto di polenta. Beh, aspetta, c'è anche un simbolismo cannibalico, diventa il loro pasto, se lo mangiano, al fine è l'olocausto alla loro lussuria. Praticamente lui è il salsiccione gigante all'interno della polenta buttata sul tagliere per far contenti, facevano una cosa rustica nella loro tavernetta e dentro la polenta c'era lui. E quando lo scoprono, lui dice: ma è uno scherzo, e la prendono a ridere. Nel loro masochismo di casta ridono del fatto che il povero scemo era diventato la salsiccia nella polenta. Esatto, c'è il cortocircuito con il porcile di Pasolini, appunto, il capitalismo un po' alla grossa che divora appunto i suoi figli o comunque i suoi sottoposti. Qual è la sua? È questa. Ah, questa qui, questa baracca. Ma, guardi, era meglio il carro funebre. Andiamo, va. Scendi, merdone. Avanti, Fantozzi, scenda. Gli faccia vedere chi è. Chi è lo stronzo? Io. Adesso un altro personaggio fondamentale, Anna Mazzamaro, la signorina Silvani. La signorina Silvani ha delle parvenze di una sorta di erotismo da immaginario da scrivania, perché in fondo ha un corpo procace nella sua orripilanza. Lei recita la parte della racchia, però della racchia profumiera, la racchia che in fondo rappresenta nell'aberrazione miserrima di un sottoluogo umano l'unico appeal, l'unica cosa che respira, che potrebbe rappresentare un caldo rifugio per le lussure esasperate e autoerotizzate degli impiegati. Sì, catalizza appunto le aspirazioni di tutti. Il gastone paperone della situazione, ovvero Calboni, poi se la papperà, arriverà lui come un rapace, la sottrarrà a Fantozzi. E il campo da gioco claustrofobico dell'ufficio in cui Fantozzi ancora una volta agogna, ma è perdente. E poi c'è il rapporto con la macchina come dimensione per attirare, la macchina come nei mostri di Dino Risi, che Tognazzi, che è un proto Fantozzi, addirittura si era pensato a lui per un Fantozzi iniziale perché il villaggio non lo voleva fare, compra la macchina e poi la inaugura sulla strada con delle signorine compiacenti e prezzolate. La macchina è quello, la bianchina, che poi diventa viene devastata da Nello Pazzafini e da altri figuranti che gliela distruggono in seguito a una lite. C'è da dire che Fantozzi ha un suo momento di rivalsa glorioso quando si prenderà la bomba al bar, che finalmente riesce a passare una notte con la signorina Silvani. Si era talmente dopato e drogato con questa sorta di cocktail che gli fa il cameriere, ci mette anche dentro proprio una bomba a mano, che la mattina dopo la signorina Silvani dice: che mi so persa in tutti questi anni. E implorante, prona e finalmente sottomessa a Fantozzi, dice: Fantozzi, melodì. Ci sentiamo tra un istante. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Per farsi perdonare l'increscioso incidente, i conti Serbelloni, un'astuta mossa padronale, invitarono Fantozzi e Filini al tavolo d'onore. Metta quella roba al posto. Impiegato? Fantozzi. Impiegato. Mi permetta di presentarle alcuni nostri amici. Eccellenza, l'eminenza, l'evitanza. Donia Mignaz de Coral. Mi scusi, ho le mani un po' sudate, allora. Generale di squadra aerea Ernesto Maria Lampioni. Marchesina Giava del Corpo. Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo. Ecco qua, siamo nuovamente parlando di Fantozzi. Ricordo, Fantozzi restaurato è proiettato nelle sale dei cinema italiani e, come ho detto, la gente continua ad andarlo a vederlo nonostante che Fantozzi possa essere visto gratis su YouTube, che tutti a casa comunque hanno un DVD, una cassetta, hanno un supporto con dentro qualcosa che riguarda i Fantozzi. Si ripete una sorta di rito collettivo, un grande esorcismo: andiamo tutti a vedere Fantozzi, lo sappiamo a memoria, ma anche quando la gente va a messa sa a memoria le preghiere, eppure ci va tutte le domeniche. Eppure dopo 40 anni ancora ragazzi che non sono assolutamente coevi all'uscita del film di Fantozzi, che hanno avuto i padri, forse qualcuno anche i nonni, che hanno riso su Fantozzi, vanno e ridono di Fantozzi. In questo caso abbiamo sentito, ritornando all'argomento che abbiamo lasciato con Giuseppe Sanzon, la famosa cena sempre a casa della contessa Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare. Queste occasioni mondane a cui gli impiegati erano invitati, ma erano invitati un po' come si fa quell'orribile rituale della cena con il cretino, che tutti gli amici d'accordo invitano quello che è sempre il loro zimbello a una cena, facendogli credere di essere l'invitato d'onore. In realtà è lo zimbello di tutti, perché oltre il buon cibo, oltre il buon vino, oltre il lusso dei paramenti, ci vuole anche qualcuno da deridere, da ridere, una sorta di clown, di buffone di corte che intrattiene gli astanti. In realtà la dinamica è del sinite parvulos venire ad me, cioè una mensa ecumenica in cui vengono accolti gli umili una tantum, anche loro possono sedersi alla mensa padronale, possono. Però a questo li metti in una crisi devastante perché sono inadeguati, è come è esattamente quello che faceva Buñuel quando i borghesi chiamano l'autista e gli chiedono beva questo martini, ecco il modo scorretto di bere un martini. Tra l'altro Milena Vuko che poi sarà la pina fantoziana metafisica, c'era nei film di Buñuel e ci sarà in quelli di Fantozzi. Anche questo è assimilato da Villaggio in maniera molto arguta, il rapporto, l'umiliazione rituale, che appunto davanti a una panoplia di posate assurde che non vengono mai usate nella quotidianità del Tinello di Fantozzi, lo rendono ridicolo. Beh, lui, diciamo, il pasto privilegiato di Fantozzi, quella che per lui era la cornucopia di ogni lussuria, era il frittatone alla cipolla e il rutto libero davanti alla partita, una delle cose più tristi, una frittata, una bottiglia di birra, la coperta sulle gambe, la partita davanti, poi non riuscirà mai a vedere fino in fondo. Questo can, dog, mangia, fame, fame, cucina, mangia, tu cucina, ande. Comprende? What is this? Cosa è questo? Ah, finalmente un po' d'arrosto. Era ora. Cosa? Pier Ugo! Ma non... Lei è un assassino! Assassino di Pechino! Ecco un altro dei classici. Ancora in Italia non c'era il mito del ristorante giapponese, il sushi nessuno sapeva cosa fosse, eppure con un'anticipazione straordinaria Fantozzi, da grande damerino, porta finalmente la signorina Silvani a cena fuori e la porta al ristorante giapponese, che ancora era qualcosa di metafisico che gli italiani non conoscevano, in cui c'erano questi samurai che mozzavano le mani a chi usasse le posate al posto delle bacchette, in cui il cibo era immangiabile, e c'è la scena veramente epica del cagnolino della Silvani cucinato e servito a tavola. Perché? Perché allora si pensava che i giapponesi mangiassero i cani. Ecco, io ho un aneddoto relativo a 15 anni prima, che parte dal mondo di Fellini, che non è così distante da quello di Fantozzi. Il primo ristorante cinese che si apre a Roma in via Bissolati usava degli abruzzesi, dei camerieri abruzzesi o di varie nature, vestendoli da cinesi e truccandoli da cinesi per rendere l'esotismo, però avendo personale italiano. E Fellini, e con la Masina, fu uno dei primi frequentatori di questo posto. Appunto, l'esotismo italiano che ha bisogno di ripittarsi, ridipingersi per immaginare nuovi mondi. L'impiegato immagina le sue fughe fantastiche verso altre mete, che però sono sempre un cielo dipinto su un muro squallido quando lo scrosti. No, sono sempre molto di più, una sorta di Golgota, un luogo di mortificazione allo stesso tempo di martirio. In quel ristorante giapponese succede di tutto. Fantozzi è la sua massima umiliazione. Fantozzi che, quando tocca il piatto arroventato e urla e mette la mano nell'acqua, sembra quasi che lanci un nuovo rituale in voga in quel ristorante giapponese. Soprattutto Fantozzi ha la prova indelebile dell'inarrivabilità della signorina Silvani, donna che chiunque potrebbe avere semplicemente con un modesto potere d'acquisto nel giro aziendale, a lui è interdetta. E addirittura l'unica sera in cui esce con lei vestita da giapponese, una cosa chiccissima così, riuscirà a porre una sorta di muro invalicabile tra loro, perché l'oggetto di affetto a lei più cara, che era il cagnolino orribile, viene servito, e quindi c'è questa sorta di orribile rapporto fra vita e morte. Oggi non sarebbe più possibile. Penso che se oggi uno dovesse girare un film in cui viene mangiato un cane arrostito, troverebbe la fila degli animalisti davanti al cinema ad impedirne la proiezione, come fosse stata una sorta di rappresentazione di un atto abominevole. Non trovi? Forse sì, tra l'altro il cane si chiamava simbolicamente, sempre nel rituale, Pier Ugo, quindi c'è, è come una sorta di protesi dello stesso Fantozzi, il cane, però a cui invece a lui viene riservato l'affetto vero, a Fantozzi no. Beh, alla fine, secondo te, quante generazioni ancora reggeranno all'impatto di Fantozzi? Qualcosa di ormai indelebile, come abbiamo detto, che non potrà mai più essere cancellato all'evolversi dei tempi, perché c'è una sorta di rapporto titanico fra essere umano e il potere degli dèi, così ben rappresentato che non sarà mai vecchio, non passerà mai di moda. Le dinamiche di potere sono sempre uguali, sono metafisiche, rimangono là e si ripetono identiche. Il punto è che Fantozzi aveva un posto fisso, quindi si protraevano dei decenni calcificati questi rituali. Oggi è molto con un contratto a termine, l'umiliazione deve essere anche sintetica, rapida e concisa. Grazie Sansonna, alla prossima!